Respiro. Buongiorno, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Giornate difficili per chi vive a Milano, la qualità dell'aria è pessima ed è così dall'11 gennaio, da quel giorno abbiamo infatti superato il livello concesso e da quel momento le polveri sottili non sono mai scese sotto la soglia che dovrebbe proteggere la salute dei cittadini. Dunque 18 giorni consecutivi di aria fuorilegge è un triste record. Parliamo di questo in questa puntata di Respiro, parliamo soprattutto di Milano perché, come sentirete, è stata al centro di iniziative direi quasi storiche che non potevamo ignorare. Partiamo dal fatto soprattutto che a seguito di questi 18 giorni consecutivi di aria fuorilegge non c'è stato alcun blocco del traffico, perché soprattutto sono state ritoccate le leggi regionali che lo prevedevano e oggi a ridurre l'inquinamento dovrebbero esserci le misure strutturali come ad esempio l'Ecopass. Record storico, ma anche iniziative che forse stanno risvegliando, dicevamo, la cittadinanza che sul tema dell'aria inquinata sembrava essersi un po' addormentata. Dunque questa settimana sono successe alcune cose, ad esempio per una notte intera due consiglieri hanno occupato l'aula principale del Comune di Milano, sono stati Enrico Fedrighini dei Verdi e Carlo Montalbetti di Milano Civica. Noi abbiamo intervistato quest'ultimo. Credo che il dato più importante sia una testimonianza, che in questo caso fisicamente poi si traduce nel restare in aula, anche se simbolicamente per tutta un'intera giornata, quindi la notte in particolare, perché l'amministrazione comunale, al di là dei grandi progetti strategici, prenda coscienza che bisogna fare anche interventi di natura immediata, che possono non certo azzerare tassi di inquinamento allarmanti e ripetuti che abbiamo, ma certamente contenerli e soprattutto dare fiducia alla gente che si sente sempre più rassegnata ad accettare questa maledizione dell'inquinamento come un dato ineliminabile. Per esempio, anziché farsi preoccupare dalle imminenti elezioni regionali, per cui si è deciso da parte della Giunta di spostare il divieto per quanto riguarda gli Euro Diesel 4 all'entrata nel centro di città, quindi con il pagamento dell'Ecopass, sarebbe opportuno che a fronte di queste notizie gli Euro Diesel pagassero immediatamente. Sarebbe un atto di responsabilità, aiuterebbe a ridurre un pochino il tasso di inquinamento e darebbe soprattutto la percezione di un coraggio nelle decisioni che non viene influenzato da puri calcoli elettorali. Ecco, ci sono anche delle iniziative che erano partite anche bene, diciamo, sto parlando delle biciclette messe a disposizione, ma che si sono poi rivelate iniziative un po' zoppe, no? Perché la bicicletta c'è ma manca la pista ciclabile. Assistiamo certamente a una politica contraddittoria. Diciamo che l'avvio dell'amministrazione Moratti ha segnato un punto molto alto anche dal punto di vista delle scelte coraggiose che ha portato delle vere e proprie novità anche nello stile di vita dei milanesi, appunto il bike sharing di cui stava parlando lei. Il contraddittorio dove sta? Sta nel fatto che non si è voluto perseguire diciamo con tenacia questa strada, e questo lo devo dire per interessi anche di natura proprio corporativa, che hanno fatto prevalere logiche che poco hanno a che vedere con il bene collettivo. Ecco, io credo che si debba ripartire da questo spirito, cioè uno spirito civico, e proprio non mettersi a fare distinzioni tra destra, sinistra, maggioranza e opposizione. Anche ieri sera in Consiglio Comunale nella maggioranza abbiamo sentito delle voci, degli accenti molto positivi e importanti, cioè accenti di chi non guarda un interesse particolare, non guarda solo all'urna elettorale, ma pensa alla salute dei cittadini. Ecco, io credo che, e mi auguro che questo atto di testimonianza serva a dar vita a una sorta di laboratorio Milano, quindi in sostanza un esperimento di alleanza civica che, come sulla sicurezza, possa tradursi anche sulla salute. Tutti assieme, almeno quelli che hanno intenzione di farlo seriamente, sapendo che ci sono dei sacrifici da fare, ma il risultato può essere poi condiviso da tutti. Voi avete, tra le altre cose, presenterete nei prossimi giorni un dossier, un documento nel quale si parla di cosa, insomma, provoca l'inquinamento atmosferico sulle persone. E ci può anticipare qualcosa rispetto a questo documento? Chi è che l'ha stilato e che cosa dice? Ma guardi, il documento in realtà è stato commissionato dal Comune, è stato completato nel settembre dello scorso anno e poi è stato messo in un cassetto. Cioè non è mai stato pubblicato, non è mai stato dato alla stampa. Non è mai stato pubblicato se non qualche anticipazione. E chi è che l'aveva fatto? Esatto, perché dalla Fondazione Ambiente della Regione Lombardia, un lavoro importante con un team di scienziati e di medici, da cui emergono 50 aree milanesi sottoposte a un'indagine dettagliata che mette in rilievo tutti gli agenti inquinanti. È un lavoro molto importante che proprio però per la sua natura così oggettiva e i dati che presenta, ripeto, allarmanti, è stato confinato nel dimenticatoio. Bisogna invece riprenderlo, perché questo ci permette non solo di avere una mappatura, ma anche di poter attivare le politiche più opportune, che ripeto, sono già state prese dal punto di vista del principio dall'amministrazione Moratti al suo inizio, ma che poi non sono state sviluppate. Penso all'Ecopass, che dopo l'esperimento nell'area del centro storico avrebbe dovuto essere progressivamente esteso a tutta la città e sicuramente questo avrebbe provocato benefici dal punto di vista ambientale. Penso alle caldaie, a tutto il tema che ha a che vedere con la riconversione. Qui l'amministrazione comunale, per esempio, ha grandi responsabilità perché tra le caldaie che sono fuori norma, una parte importante sono proprio quelle che fanno parte degli edifici del Comune di Milano. E poi bisogna uscire da questa logica, la logica della contrapposizione. Cioè, qui è finita l'epoca della retorica del regime, qui invece c'è la necessità di una vera e propria sferzata che parte dall'amministrazione per arrivare ai cittadini, cioè il cittadino non si deve rassegnare, deve trovare un'amministrazione che è sempre sul pezzo, ha di fronte a questi allarmi, ha delle risposte che non sono taumaturgiche, non sono magiche, che però danno la percezione che si sta facendo qualcosa e questo lo deve motivare a fare anche lui le cose opportune. Se l'amministrazione di per sé rinvia tutto al futuro, si immagini i cittadini cosa fanno? Si rassegnano, fanno i cavoli loro, non si preoccupano e i risultati sono che io ho deciso, guardi, sono un po' avanti negli anni, ho deciso di fare quello che ho fatto come atto di testimonianza perché ho un nipotino di un anno e mezzo, che è un mese che ha problemi respiratori e mi è sembrato il minimo che potessi fare come atto di testimonianza. Cioè, o ci rendiamo conto di questo, se no credo che altro che pensare all'Expo che attira nuovi visitatori o nuovi cittadini. La gente certamente non verrà a Milano, per quale motivo deve venire a fare una famiglia? E dunque, che fare? Secondo Edoardo Croci, ex assessore all'ambiente di Milano, di area bocconiana, che per chi non lo ricorda fu l'ideatore tecnico dell'Ecopass, la cosa che si dovrebbe fare è fermare i veicoli commerciali che non hanno il filtro antismog. Sono un decimo, dice Croci, dei veicoli circolanti, ma sono responsabili di un terzo delle emissioni da traffico della città. Sappiamo anche però che Croci ha già pagato un caro prezzo quando cercò di estendere l'Ecopass e invece dovette dimettersi. Anche in questo caso la proposta non è piaciuta a Comune e Regione che l'hanno definita una proposta tampone e nel caso di aria inquinata né Regione né Comune vogliono sentire parlare di emergenza. Quindi questa è la situazione generale, vedremo cosa succederà la prossima settimana. Dietro l'angolo c'è la BPSEC, un'azienda che si occupa di ambiente, che pochi giorni fa ha presentato alla stampa una serie di macchinari legati al monitoraggio della CO2. Il presidente di BPSEC si chiama Daniele Barbone ed è stato intervistato da Emiliano Enrico. Gli obiettivi raggiunti dagli operatori del settore a livello nazionale rispetto ai target che erano stati definiti dal protocollo di Kyoto, dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale, non sono stati raggiunti in Italia. E quindi è opportuno fare una riflessione se già rispetto agli obiettivi che avevamo, se non siamo riusciti a centrare questi target, che cosa è necessario fare alla luce dei nuovi obiettivi che potrebbero essere individuati già dall'Unione Europea con la direttiva che oggi è definita 20-20-20 e poi ancora con le ipotesi su cui si sta ragionando e che non sono state poi approvate in seno al COP15 a Copenaghen, ma che potrebbero essere recepite nel COP16 che ci sarà a Città del Messico. Davanti a operatori lombardi che fanno quotidianamente i conti con le emissioni di CO2, dal settore del cemento a quello dei solventi fino allo smaltimento rifiuti, sono emerse le difficoltà di fronte ad un sistema di leggi e regolamenti che, dall'Europa alle regioni, giù fino ai comuni, non sempre sono chiare e uguali per tutti e che soprattutto non penalizzano le aziende, pubbliche o private che siano, che più inquinano. con l'effetto paradossale che a volte chi invece è più virtuoso non viene però incentivato a investire nell'energia verde. A margine del convegno, BPSEC ha colto l'occasione per mostrare ai suoi ospiti una serie di laboratori appena inaugurati. È sempre Daniele Barbone ad illustrare le novità in azienda. Gli ultimi che abbiamo messo a punto, che fanno riferimento all'area che si chiama Pollution all'interno della nostra organizzazione, sono proprio i rilievi per clienti molto complessi dal punto di vista industriale che hanno esigenze di monitoraggio, quindi parliamo di i controlli per quanto attiene l'anidride carbonica, le diossine, che sono un po' il fiore all'occhiello e la punta avanzata delle attività di monitoraggio che la nostra struttura sta erogando. Noi abbiamo un piano di investimenti 2010-2011 già in parte implementato, che prevede complessivamente ulteriori 500.000 euro di investimenti in apparecchiature, di cui ne abbiamo già in casa strutturate per quanto riguarda il settore di cui stiamo parlando quasi un terzo. Posto che aziende come BPSEC sono sempre le benvenute, spetta però a governi e grandi imprese affrontare senza reticenze il problema globale delle emissioni di CO2. Dopo la delusione di Copenaghen, il prossimo appuntamento internazionale è a novembre, a Città del Messico. In chiusura vi parliamo di iniziative per vivere meglio nella propria città. In questo senso, sempre parlando di Milano, abbiamo scoperto questo sito che ci è parso veramente degno di nota, Survive Milano. L'ideatrice del sito è una donna, Bruna Gerner, e ci racconta quali sono gli obiettivi e l'idea che ha spinto a creare questo sito. Survive Milano. Survive Milano è una guida per vivere bene a Milano, nonostante Milano sia una città difficile. Io non sono di Milano, sono di Torino, vivo a Milano da qualche anno e sto ancora imparando a vivere bene a Milano, a sopravvivere. Sopravvivere proprio per vivere bene. E per me vivere bene vuol dire trovare cibo di qualità che non costi tanto, trovare attività non troppo onerose, farsi dei giretti carini, comprarsi dei vestiti che senza dover andare nella boutique, insomma vivere una vita normale che sia però anche di qualità, quindi non spendere solo poco, ma spendere poco per cose di qualità. Questa è un po' l'idea e la guida. Ci sono delle indicazioni anche per vivere a Milano con i bambini, quindi fare attività che non siano necessariamente corsi a pagamento, ma anche cose che permettano di conoscere un po' meglio la propria città. Sì, infatti questa nasce da una mia esigenza personale, sono una mamma, mi piace fare delle cose in città, cioè non dover per forza scappare tutti i weekend via da Milano, che è una cosa che ho conosciuto dai milanesi, no? Cioè il venerdì sera attacca e scappare. Invece stare in una città e scoprire degli angoletti, perché ce ne so, l'orto botanico di Lambrate è bellissimo, oppure andarsi a fare un giro alla stazione centrale, che è un posto che è visto secondo una prospettiva tranquilla, senza le valigie, senza dover partire, andare da qualche parte, è carina anche da vivere con i bambini. Voi siete nati da poco, da pochissimi mesi, l'obiettivo è quello di diventare un po' il punto di riferimento per tutto, in qualche modo, un movimento di persone che cercano non solo di sopravvivere, ma anche di avere dalla propria città delle risposte sulla qualità della vita, quindi qualità del cibo, qualità dell'aria. No, noi siamo molto aperti, noi vogliamo, stiamo cercando proprio una rete di persone con cui scambiarci dei consigli, e quindi la maggior parte di consigli che ho, di recensioni che finora ho scritto, mi sono state suggerite da persone, anche persone che non conosco, che mi hanno suggerito tramite il sito. Il sito è nato da pochissimo, da neanche 3 mesi, però sta incominciando a funzionare. Vedo che le persone che ci arrivano per caso, magari tramite Facebook o tramite amici di amici, mi danno dei pareri positivi e anche dei consigli soprattutto. Quindi diciamo che nasce come una cosa mia personale, perché volevo stare meglio a Milano, però può coinvolgere tante altre persone. Ecco, diciamo che nell'ambito di questa puntata, che ha fatto proprio un focus su Milano e ha messo in luce anche delle deficienze del singolo cittadino, noi abbiamo parlato di qualità dell'aria e anche di singole responsabilità, quindi di persone che non smettono di usare l'auto, di persone che si aspettano che le amministrazioni locali prendano delle decisioni, poi c'è questa esperienza di Survive Milano, che invece in qualche modo vogliamo leggere come un'esperienza positiva, e quindi cominciamo a vedere che non ci sono solo quelli che si chiudono in casa, ma ci sono poi tutta una serie di persone che amerebbero e vogliono partecipare alla vita cittadina, proponendo, suggerendo, guardando la città, come diceva lei, con occhi nuovi. Sì, e poi già vivendo in modo diverso, andando in bici. Sono delle nicchie che secondo me sono abbastanza forti e che hanno poca voce in città, però sicuramente io continuo a incontrare persone così, persone come me, persone che hanno voglia di, persone normali che hanno voglia di mangiare biologico però senza dover andare in negozio elitario, cioè persone che sono capaci di vivere bene e hanno bisogno anche però di strumenti, di consigli. E hanno anche cose da dare. Respiro termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento è sempre domenica alle 14.30. Potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata a tutti. Da Cristina Carpinelli.